Pedro Armocida, direttore della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, per sapere i suoi cinque film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2023 e fare un po' un bilancio dell'annata cinematografica. Pedro, ben trovato. Grazie, ciao a tutti. Io sono una persona in genere molto positiva e lo sono anche rispetto al futuro del cinema in sala, anche guardando, no, un po' anche i dati globali. È chiaro che poi ogni territorio, ogni nazione ha le sue problematiche e l'Italia pure. Dopo la pandemia non si è tornati allo stesso livello di presenza rispetto al 2019, però certamente rispetto allo scorso anno su questo versante ci sarà un meno, credo, tra il 25 e poco più per cento rispetto al 2019. L'anno scorso stavamo a meno 50%. Quindi si sta ristabilendo questo contatto del pubblico che torna nelle sale, ma torna non come prima, che comunque si andava al cinema, qualunque film ci fosse. Da tempo non è più così, ma dopo la pandemia abbiamo capito che il pubblico sceglie molto attentamente e quindi esce di casa e va al cinema solo se sente quasi chiamare, quasi per un evento, no? Film di Paola Cortellesi c'è ancora domani. E il film di Paola Cortellesi è proprio questo, no? Un evento, un film che è diventato, come è successo altre volte, non tantissime, nella storia del cinema italiano, il film da vedere. E questo comunque ha aiutato molto la nostra sala e ha aiutato molto anche la quota del cinema italiano, che si attesterà un po' sopra il 20%, in linea anche con gli anni precedenti. Comunque, lo stato del cinema di cui mi chiedevi, bene o male, fortunatamente ogni anno, secondo me, comunque ci dà una ventina di opere in generale degne di grande considerazione. Il quinto film che mi è più piaciuto quest'anno è Coma di Bertrand Bonello, che magari sarò l'unico a parlarne in questo consesso, però è un film in qualche modo sperimentale, di una sperimentazione che oggi secondo me ci fa molto bene, perché appunto il cinema non è che è diventato più convenzionale di prima, però il sistema di distribuzione, se non di produzione, l'imbuto che c'è poi alla fine fa sì che appunto gli esercizi sperimentali quasi non arrivino al cinema, ma si possono vedere appunto nei festival che tanto amiamo. E in questo caso Wanted Cinema l'ha fatto uscire al cinema, un film che parte da un discorso sulla pandemia, sul Covid, sulla chiusura in una stanza di un adolescente che sarebbe in qualche modo sua figlia, a cui scrive questa toccante lettera di amore che apre e chiude il film. Però ecco, dei film cosiddetti, no, sulla pandemia, che o non ne potevamo più o non ne volevamo più sentire parlare, questo è un film che racconta il mondo di oggi, ma non perché è legato a quel momento storico, ma perché è un magma di immagini visive, di discorsi sull'immagine, sullo sguardo. E poi mi ha incuriosito molto perché appunto dopo il grande successo di Barbie, cioè prima l'ha girato Bonello, ci sono Barbie e Ken che prendono forma e parlano dentro il film. E quindi ecco, attraverso queste piccole connotazioni che ho dato, ecco, ci sta un discorso sullo sguardo, sull'immagine, veramente molto molto profondo, a parte poi che è un film molto commovente, molto cerebrale, ma anche molto molto sentito, molto profondo e molto commovente. Poi saliamo e qui vedo un film italiano, quest'anno ne ho apprezzati parecchi, tra cui Io Capitano, ultimamente ho rivisto anche La Chimera, che è molto bello, però inseriamo in questa nostra cinquina Il Sol dell'Avvenire, Nanni Moretti, che torna a fare, ad essere Nanni Moretti, che è un po' croce e delizia sua, perché quando poi in alcuni esperimenti, pensiamo a Treppiani, non del tutto convincenti, fuori da quello che è la sua, chiamiamola, poetica, il suo linguaggio, che è molto egoriferito e molto autarchico, diciamo così, mi hanno convinto di meno. E in questo caso invece si torna proprio a una summa in 95 minuti del pensiero di Nanni Moretti, che ripensa comunque a se stesso, alla sua storia, alla storia ancora una volta della sinistra italiana, raccontata in maniera comunque sempre con una certa dose di critica e non quanto di autocritica. Però ecco, è il Nanni Moretti che almeno io ho amato da sempre e che ci torna a raccontare un personaggio, in questo caso si chiama come se stesso, con Margherita Hu e Silvio Orlando, e poi anche nel finale, no, una sorta di quarto stato con quasi tutti gli attori, gli interpreti del suo cinema, e sembra quasi un film testamentario, quasi. Anche questo è molto interessante pensare che cosa succederà dopo di questo, perché effettivamente sembra appunto un film quasi cimiteriale per come è costruito. Però l'auspicio è anche l'idea di vedere che cosa riuscirà a inventarsi dopo di questo. Ecco, è un'idea che mi piace vedere Nanni Moretti dopo questo film. Allora, il terzo si intitola Trenkelauken, che è una località della Pampa argentina, in cui è girato questo film, chiamiamolo Monstre, di Laura Citarella. La durata, appunto, è Monstre, è durata di 4 ore, diviso in 2 parti, diviso sotto capitoli. Diciamo che fa parte di una realtà argentina di produzione che si chiama il Pampero Cine, che qualche anno fa aveva dato un frutto che si chiamava La Flor, visto al Festival di Todino di Mariano Linas. È un collettivo di cineasti argentini che produce film, direi, incredibili, film che sulla narrazione, no? Da un punto di vista borghesiano, puntano tutto. Il meccanismo narrativo è dilatato in diversi anche formati, in diversi generi. È un universo nel quale si viene accompagnati, nel quale la storia qui di una donna che sembra essere scomparsa, una professoressa di università legata alla botanica, alla ricerca del suo fidanzato e di un amico che l'accompagna, di questa donna scomparsa nella Pampa argentina, è solo un canovaccio, solo un espediente per invece, appunto, raccontare in maniera più approfondita proprio i meccanismi narrativi che sono la base delle storie da sempre. E quindi, ecco, è piacevole farsi trasportare in questo mondo senza che poi il lato thriller così sia prevalente o sia interessante. Interessante come si sviluppa il film, che poi è sempre il centro dell'analisi di un film, è il come, non la storia o altri aspetti. Il secondo, ecco, è un po' come Il Sole dell'Avvenire di Nanni Moretti, è un colpo di fortuna Woody Allen, e ritrovare, ecco, può anche essere una cosa un po', non dico negativa, ma o stanca o poco coraggiosa, cioè quella di ritrovare un autore che ti piace, di ritrovare gli stilemi, i topoi, tutto quello che lui è in un suo film, e ritrovare questo quasi ogni anno, perché Woody Allen comunque praticamente quasi ogni anno fa un film che parla degli aspetti che lui interessano. Qui si parla, appunto, di un rapporto amoroso, di un delitto, di castigo, la colpa, tutti i temi che lui ha sviscerato in tanti altri film, ma appunto in una dimensione aurea di, mi pare, 90 minuti, con uno stile chiaramente riconoscibilissimo già dal tipo di font, dei titoli di testa, di coda, delle musiche. È come entrare in una cosa che già conosci e che ogni tanto, così pulita, è quasi essenziale, no? Qualcuno potrebbe anche dire superficiale, invece i caratteri vengono accennati ma raccontati in maniera molto, molto profonda. E vista anche l'età di Woody Allen, il fatto che sembra sempre quasi che possa essere l'ultimo film, è uno dei film del cuore di quest'anno. E siamo al gran finale, che rispetto anche a alcuni titoli è una classifica anche un po', quasi, non vorrei dire di nicchia, ma non vorrei neanche apparire in questo senso che un critico che cerca titoli meno conosciuti, però è veramente una sorpresa. Parlo di Asbestas, Rodrigo Sorogoyen, regista spagnolo, che ho avuto anche per un evento a Roma quest'estate la fortuna di conoscere, di passare con lui qualche ora per presentare un suo film precedente che si chiama Il Regno. È un regista molto sorprendente, è abbastanza giovane. E Asbestas, un po' come il titolo, un po' come la locandina incredibile, riesce a raccontare una delle attitudini umane più tremende, che è quella che conosciamo bene, purtroppo, del fatto che lo straniero che arriva in un paesino, qui parliamo nel nord della Spagna, uno straniero, un francese, che mette casa in questo paesino, ecco, e si inimica subito, ma senza fare, praticamente, la comunità locale, che non accetta tanto la presenza di appunto stranieri nella sua terra. È una cosa che conosciamo bene, ma questo viene raccontato non in una maniera didascalica, figuriamoci, in un crescendo di violenza sotterranea quasi non mostrata, ma che è ancora più tremenda perché racconta proprio questa violenza che l'uomo ha e che deve chiaramente sopprimere. Purtroppo il fatto dello straniero è diverso, della persona non vuole a te, che magari mette nella tua terra, che tu credi che sia tua, un'attività di produzione agricola o quello che sia, ecco, è sempre una minaccia, è sempre qualcosa da combattere. Tutto questo, dicevo, chiaramente raccontato in una maniera molto sottile, e in cui questa violenza la percepisci, la capisci pure, non l'accetti, però, ecco, è un film in questo senso molto profondo. Pedro, ci risentiremo nel corso dell'anno. Auguri e a presto. Grazie Federico, auguri a tutti.